Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e bentornati a Mr. Kilowatt. Quanto rende investire in efficienza energetica? Si va dalla coibentazione della casa all'installazione di pannelli fotovoltaici alla cogenerazione. Insomma, un numero valido per tutti i casi non lo si può dare, ma è certo che l'efficientamento energetico rappresenta oggi, sia per il privato cittadino sia per l'impresa, di qualunque dimensione essa sia, una delle forme di investimento di gran lunga più remunerative. Tanto remunerative che conviene nella stragrande maggioranza dei casi. Abbiamo parlato anche nel caso di un condominio che vuole cambiare l'impianto di riscaldamento, conviene, dicevamo, ricorrere a un finanziamento e quindi rivolgersi alle banche per ottenere il capitale necessario. Qui però ci scontriamo con un mercato bancario che, insomma, non è ancora pronto, non ha risposto a queste esigenze nuove che si sono aperte da non molto tempo. Beppe Lombardini, esperto di questioni finanziarie e energetiche di VTS Consulting, che è una società di consulenza attiva proprio nel campo della green economy, ci aiuta a farci un quadro della situazione. Lombardini è in linea con noi. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, cominciamo a ragionare per sommi capi sul rendimento degli investimenti, diciamo, in risparmio energetico. Ovviamente tutto dipende da che cosa esattamente si fa, però riusciamo, insomma, a dare dei numeri indicativi? Sì, assolutamente. Intanto bisogna fare un distinguo. Efficienza energetica è un termine molto ampio ed è composto sostanzialmente da due fattori. Un elemento risparmio, quindi ciò che si risparmia rispetto a ciò che si consuma attualmente, e un secondo elemento che invece dipende assolutamente dalla fonte di approvvigionamento, perché se la fonte è rinnovabile, in questo caso ci sono degli incentivi che consentono quindi una marginalità ulteriore. Ora, se abbiamo entrambe le componenti, sicuramente andiamo oltre l'8% annuo. Se invece parliamo di sola efficienza in termini di risparmio, abbiamo una marginalità che è tranquillamente fra i 5,5 punti e i 6 punti. Anche se ci sono molte operazioni sulle quali i tempi di rientro sono anche molto più brevi. Se io penso, non so, alla sostituzione di motori elettrici con motori ad alta efficienza, in questi casi si hanno spesso anche dei numeri a due cifre. Assolutamente sì, lei ha esattamente toccato il punto nevralgico, nel senso che noi riteniamo che l'efficienza energetica non possa prescindere anche da un investimento proprio nell'aspetto produttivo, quindi per esempio nel discorso dei motori che lei faceva prima. In questo caso superiamo tranquillamente il 13-14%, perché al di là di quello che è il rendimento netto finanziario dell'investimento in quanto tale, c'è comunque un grosso contributo, e questo vale in tutta l'Unione Europea, quantomeno in parecchi paesi dell'Unione Europea, a sostegno dell'energia rinnovabile. Lei dice l'incentivazione fiscale porta questi rendimenti. Non solo l'incentivazione fiscale, c'è anche l'incentivazione determinata dalle tariffe omnicomprensive. Chiaro, certo. E certo. Quindi questo consente un margine molto, molto importante, sicuramente un margine fra i più importanti del mercato economico in senso lato. Anche perché dobbiamo ricordare una cosa, che in molti casi l'efficienza energetica ha dei ritorni praticamente certi, a differenza della stragrande maggioranza degli investimenti finanziari, il che ci deve far pensare che, insomma, anche due tassi di rendimento, uno promesso e l'altro certo, non sono la stessa cosa. Nel modo più assoluto, e questa garanzia è determinata proprio dal fatto che l'Unione Europea, le direttive europee fissano queste tariffe omnicomprensive che danno la certezza del risultato, quindi uno sa già quanto ricaverà per i prossimi 15 anni o 20 anni. Sì. A questo punto ci si aspetterebbe che le banche facciano a gara per finanziare questo tipo di interventi, perché sono sicuri e con una redemption, questo è il termine, diciamo, gergale, molto alta. E invece? E invece in realtà c'è una discrasia fra quello che è uno sviluppo repentino e un'impennata di questo mercato negli ultimi 3 anni, rispetto a un adeguamento di quello che è il sistema finanziario e bancario a questo settore, dovuto sostanzialmente a una non conoscenza di quelle che sono le dinamiche tecnologiche, quindi per loro il rischio sotto questo profilo è elevato. Se si aggiunge il fatto che Come sempre questi mercati vengono prima attaccati dai grandi movimenti finanziari, spesso e volentieri le nostre banche, inteso per nostre europee, quindi non è un problema solo dell'Italia, cercano prima i grandi accordi con i fondi di investimento, e questo significa che sono assolutamente in ritardo nell'adeguare strumenti finanziari per le piccole e medie imprese o addirittura per il mercato del consumo. Però insomma segnaliamo che qui c'è un'opportunità immensa per gli istituti di credito di fare investimenti oculati, tra l'altro. Confermo, è esattamente questo, per cui sicuramente c'è una grande attenzione da parte degli istituti bancari a questo settore, ma che fino a questo momento non si è ancora tradotta in strumenti operativi pratici. Lei ha delle proposte? Beh, sì, nel senso che io credo che banalmente dovremmo riuscire a trovare dei sistemi che possano consentire alle piccole e medie imprese, e ripeto anche al mercato del consumo, di poter accedere al mercato dei titoli energetici. Questo significa poter mettere a punto insieme alle banche dei criteri di certificazione di efficienza energetica, in modo tale che questi sistemi di certificazione siano bancabili e quindi possano accedere ai titoli, classici certificati bianchi piuttosto che in alcuni casi certificati verdi di piccola taglia, e che consentirebbero di conseguenza alle banche di ridurre ulteriormente l'ipotetico rischio, perché sarebbero contro garantiti da questi certificati. Grazie a Beppe Lombardini, Mr. Kilowatt torna domani sera per portarvi in un grande stabilimento in cui si fabbricano componenti in plastica, dove si è realizzato un intelligente sistema di raffreddamento. Scriveteci come sempre a mr.kilowatt@radio24.it. Buona serata da Maurizio Melis.